Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete qual è il settore, la categoria che primeggia nel carrello della spesa online? Prodotti di viaggio e turismo. E i click non hanno più a che fare solo con la prenotazione, l'acquisto di una vacanza, ma anche con i modi per viverla. Le prime due storie di oggi raccontano come procurarsi l'attrezzatura sportiva dagli sci al surf in modalità sharing e come trasformare lo sci in un'esperienza digitale e condivisa. E poi dagli abiti in stile Barbie alle fantasie e stampe pop più sfrenate, passando per i pigiami metropolitani e lo stile fitness chic. Nel focus sui trend parliamo dei nuovi modi per declinare una tendenza soggetta a corsi e ricorsi nel mondo della moda. L'abbiamo chiamata Forever Kids. Io sono Leroy, detto spaccatutto, sono di qui. Il mio amico ha una sbronza paurosa e lo dobbiamo portare in acqua, ma non ha la tavola, quindi se permetti prendiamo la tua, grazie. No. Il mio legno non lo presto a nessuno, mi dispiace. Capisco perfettamente, amico, che non presti il legno a sconosciuti. Comunque, lui si chiama Matt Johnson e abita qui con me e con il signor Jack Barlow. Dobbiamo metterlo in acqua così si sveglia. Prestaci il legno, te lo riporto subito. Parola di Leroy spaccatutto. Non posso prestare il mio legno a uno qualunque. Non è uno qualunque, è deficiente. T'ho detto che è Matt Johnson. Allora, me la presti questa tavola? Papà me l'ha appena regalata. Senti! No, ma io mi prendo la tavola. No, per il momento non ti faccio niente, chiaro? Che c'è? Eh? Prendi la mia, cosa? Se vuoi. Ok, grazie. Te la riporto subito. Johnson, a tutto si rimedia. Everybody's doing a brand new dance now. Fiducia negli sconosciuti e scarsa propensione al possesso sono le basi della sharing economy che stanno rivoluzionando il mondo dei prodotti e dei servizi. Sulle attrezzature outdoor, un campo ancora inesplorato, punta una startup italiana. Si chiama Sherwood ed è stata già soprannominata l'Airbnb dell'attrezzatura sportiva, dagli sci alla bicicletta e al surf fino alle canoe. Piercarlo Mansueto. Sherwood è la prima piattaforma in Europa che permette a chi possiede attrezzature sportive come tavole da surf, sci, snowboard e bici di scegliere un prezzo e noleggiarlo ad altre persone. Quindi da una parte singoli sportivi, di singoli viaggiatori trovano e affittano attrezzature da altri sportivi viaggiatori, mentre per i gruppi di persone all'interno della nostra piattaforma ci sono anche i negozi di noleggio, quindi siamo in grado anche di servire attrezzature in tutta Italia per gruppi superiore ai 2-3 unità. Vi piace la definizione di Airbnb dell'attrezzatura sportiva? Beh, sicuramente veniamo accostati a un'azienda di tutt'altro livello, quindi questo ci fa piacere. La cosa più positiva in questa definizione è che per chi conosce Airbnb poi diventa abbastanza immediato capire il nostro servizio e utilizzarlo, perché spesso i clienti sono gli stessi. Siete attivi da circa un anno, dacci qualche numero di utenti, che tipo di zone coprite, eccetera. Allora, noi siamo online da 8 mesi per l'esattezza, con più di 10.000 utenti registrati, di cui 8.000 solo in Italia, che hanno caricato più di 7.000 attrezzature sportive in 65 città italiane. E poi siamo presenti anche in Finlandia con 350 utenti e 72 prodotti caricati, e anche in Portogallo con più di 300 prodotti. E spaziamo tra le bici, le tavole da surf, i SUP, gli sci, gli snowboard, i monopattini elettrici, insomma tutto ciò che è attività all'aria aperta. Che cosa viene scambiato di più, affittato di più? Allora, in Italia prevalentemente la bici, viene il 50% degli scambi provengono dall'ambito bici, soprattutto bici da corsa e mountain bike di alto livello, mentre nell'ambito water un 27%, e parliamo per lo più di kitesurf, SUP e anche surf, e la restante parte è tutto sci e snowboard. Il prezzo del noleggio chi lo fissa? Il proprietario. Voi date un suggerimento oppure liberamente il proprietario indica il prezzo? No, sono liberi di scegliere il prezzo che più gli aggrada, anche perché poi è un piccolo mercato che si autoregola, perché poi ci sono tanti altri proprietari magari anche vicino a te, quindi ci si allinea da soli con i prezzi, non hanno bisogno di suggerimenti. Poi c'è tutto il sistema delle recensioni che appunto mantengono un po' lo storico di quello che è stato il comportamento e gli scambi di quella determinata persona. Quindi un po' come TripAdvisor, vai lì, guardi un po' da chi sta prendendo l'attrezzatura e chi la sta noleggiando da te, è tutto scritto, insomma. Ovviamente c'è tutta una parte di esperienza che il negozio di noleggio non può darti, anche solo incontrare una persona di un'altra cultura proveniente da un altro paese col quale poter condividere la tua passione per lo sport, poter parlare della tua tavola da surf perché incontri una persona che sa di che cosa stai parlando e ti racconta come lui cavalca le onde in Australia. E fa tutto parte di un'esperienza che poi confluisce in un'amicizia che il negozio di noleggio non può, per ovvie ragioni, essendo un'attività commerciale, non può regalarti. Gli utenti possono contare su un'assicurazione, avete previsto anche questo per l'attrezzatura? Sì, tutti i prodotti sono coperti sino a 3.000 euro, quindi qualsiasi danno viene coperto immediatamente da Sherwood. Che obiettivi vi siete dati? Allora, i nostri obiettivi sono sicuramente di qui alla fine del 2017 di avere più di 45.000 attrezzature in tutta Italia. Contiamo e speriamo quindi, dita incrociate, di poter essere un piccolo nome nella compagine italiana, ma nel contesto europeo. Quindi poi andarci a spostare in Portogallo e Finlandia per consolidare anche quei due mercati che abbiamo avviato da poco. Ehi, dai Roberto, l'importante è peso a valle e sci a monte avanzato. E lo sci a monte avanzato. E fa la Portarsi via! A rendere digitale e social la nostra esperienza sulla neve pensa invece un'altra startup dedicata al mondo degli sport invernali, Snowit, un'app con cui è possibile acquistare lo ski pass dallo smartphone, tracciare e condividere la propria esperienza sugli sci, sfidare gli amici e ottenere persino delle ricompense. Ci siamo fatti spiegare tutto da uno dei fondatori, Pasquale Scopelliti. Snowit vuole essere una piattaforma digitale dedicata a sciatori e snowboarder, quindi è un'applicazione scaricabile per smartphone che dà diverse funzionalità e servizi per chi ama il mondo della neve. In particolare offriamo la possibilità di acquistare il titolo Ski Pass tramite la nostra applicazione in modo semplice e veloce, consentendo quindi agli sciatori di saltare le fastidiose code alle casse delle stazioni sciistiche. Oltre a questo, diamo la possibilità agli sciatori di avere tantissime altre funzionalità per rendere la loro giornata sugli sci ancora più divertente. Quindi, ad esempio, la possibilità di tracciare le proprie performance o di sfidare i propri amici a chi fa più chilometri sulle piste o a chi, diciamo, va più veloce. In questo momento abbiamo 6 stazioni con cui abbiamo un accordo e quindi vendiamo i loro ski pass sulla nostra piattaforma. Sono le stazioni della Valle d'Aosta, quindi Cervinia, Courmayeur, Pila, La Tuile, Monterosa Ski e la stazione in Lombardia di Bormio. Ovviamente adesso abbiamo in piano un'espansione a tante altre stazioni in Italia con l'obiettivo di dare una copertura su tutto il territorio nazionale. E poi avete anche un sistema di ricompense, di punti da accumulare con premi da riscuotere. Di cosa si tratta? Come funziona? Esattamente, l'idea è che tramite la nostra app gli sciatori che tracciano la propria performance, più sciano, quindi più chilometri di pista percorrono, più accumulano la nostra moneta virtuale, gli Snowcoin, che può essere utilizzata all'interno dell'app per riscuotere alcune ricompense messe a disposizione da alcuni dei nostri sponsor. Si tratta ad esempio di sconti per l'acquisto di prodotti o di gadget offerti da alcuni sponsor come Jafra Cosmetics o EA7. Trattandosi di un'esperienza digitale, ovviamente l'esperienza della community, l'hai citata prima, è molto forte. Immagino che voi puntiate parecchio su questo aspetto che copia, diciamo così, i meccanismi già consolidati in altri sport. Penso alla corsa, penso alla bicicletta. Ecco, nella neve ancora questo non è tanto sviluppato. Esatto, infatti uno dei nostri punti di forza è che vogliamo diventare un po' proprio uno strumento, un punto di riferimento per mettere insieme gli interessi e connettere fra di loro gli appassionati della neve. Questo ovviamente può essere fatto o tramite la nostra app, infatti diamo la possibilità all'utente di sfidarsi con altri utenti, di condividere le proprie performance, quindi di essere parte di una community di appassionati. oppure tramite i nostri social network in cui giornalmente produciamo contenuti specifici sul mondo della neve e dello sci e ingaggiamo i nostri utenti. Il nostro obiettivo è di creare una community importante sul mercato italiano, vorremmo superare i 50.000 utenti prima della fine della stagione e per l'anno prossimo abbiamo un importante piano di espansione a tutta Europa per diventare il primo vero community network dedicato allo sci internazionale. Parola d'ordine, rilassarsi anche nei viaggi d'affari. Il neologismo che fa tendenza è bleisure, business più leisure, quindi un viaggio che sta a metà tra lavoro e piacere. E nella moda ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. E tu che dici, Will? Non desideri ancora farti una famiglia? Preferirei mangiare un pannolino sporco. Non proprio, direi che sto bene così come sto, sai? Oh, ti prego, Will. Perché? Oh, ti prego che cosa? Beh, ma guardati, hai 38 anni e non hai mai avuto un lavoro o una relazione che durasse più di 2 mesi. Io non direi proprio che stai bene, anzi direi che sei un disastro. Insomma, dai, qual è lo scopo della tua vita? Focus sui trend. L'abbiamo chiamata Forever Kids ed è una delle tendenze che nel mondo della moda, ma non solo, tornano periodicamente con nuove etichette, una su tutte Young Adult e anche nuove declinazioni anche di genere. È lo stile che nasce per un pubblico giovane ma appassiona, piace anche agli over, dai 40 in su, capi e accessori che uniscono le generazioni in pratica. Allora ne parliamo con Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina. Valentina, bentrovata. Buonasera a tutti. Da dove partiamo, Vale? Ma come giustamente hai sottolineato, Forever Kids è stata una tendenza estremamente significativa anche a cavallo del millennio, per cui in un periodo di grande incertezza e che oggi torna perché è importante sottolineare come il desiderio di tenersi stretto il bambino che è in noi è abbastanza tipico dei periodi di incertezza ed è evidente che il momento storico che stiamo vivendo non è proprio dei più sereni. Dunque il desiderio di leggerezza, di uno sguardo innocente, infantile e anche adrenalinico sta senza dubbio, come dici tu, accompagnando anche la creatività oggi, non solo nella moda, ma nella moda in maniera particolarmente evidente. È chiaro che come tutte le tendenze quando ritornano si evolvono, per cui si contaminano anche con altri, come dire, stili, con altri concetti, come quello appunto, come dicevi tu, di unire le generazioni, ma anche i generi, come vedremo. Diciamo, se vogliamo fare uno storico su questo tema del Forever Kids e di questo sguardo un po' dissacrante, non possiamo non citare Moschino inteso come brand soprattutto, ma soprattutto grazie anche al rilancio per mano di Jeremy Scott, che da alcuni anni ha davvero riconsacrato questo marchio a, diciamo, portabandiera di un certo tipo di spirito da enfant terrible, da dissacrante. L'ultima omaggio che, se vogliamo, Jeremy Scott ha fatto anche a questo mondo del gioco dei bambini è vestire Barbie e Ken per l'ultima collezione di Natale del 2016, che appunto consacra un po' questo spirito. Abiti che poi si sono ritrovati in collezione, così? Assolutamente, sono gli abiti da collezione, cioè tutto questo modo anche è un approccio, se vogliamo, molto pop, molto legato anche a un certo tipo di arte che diventa quotidiana, che diventa appunto innocente perché vissuta tutti i giorni. Jeremy Scott in questo spirito lo ha assolutamente riportato all'interno del brand in maniera straordinaria. Hai anticipato una delle parole chiave, pop, che si ritrova anche proprio nelle fantasie, nelle cromie, nei tessuti, esatto. Certo, beh, molto si deve appunto a questo approccio, a questo amore per l'arte pop. Faccio un esempio di uno stilista ormai emerso per anni, indicato come una delle figure emergenti della moda italiana, Massimo Giorgetti, che oggi è anche direttore artistico di Pucci, ma soprattutto con la sua collezione MSGM ha davvero introdotto questo spirito di vitalità nuovo proprio grazie anche al suo amore per l'arte. È un'arte che diventa moda pop si è applicata a soprattutto alla maglieria, le felpe, un certo tipo di lavorazione, di uso del colore, di citazioni, ma anche appunto di richiami a questo streetwear molto forte che oggi abbiamo visto moltissimo a Pitti, per esempio, grazie anche forse a quella che è stata la rivelazione, questo Carlo Volpi, che tra l'altro ha una storia bizzarra perché è un stilista toscano che ha proprio respirato proprio l'amore per la maglieria sin da bambino nella fabbrica di famiglia e che dopo il liceo parte per un viaggio a Londra che doveva durare qualche mese, in realtà vi si trasferisce, studia e soprattutto porta con sé la sua storia, la sua passione per la maglieria, però contaminandola con tutta la cultura, come sappiamo, quasi punk inglese. E Pitti quest'anno lo ha appunto ha presentato la sua collezione che si chiama The Domestic Queen, che è proprio una collezione di maglieria unisex, per cui pensata proprio senza genere, che vive di grandissima esplosione di colori, citazioni, proprio con un po' una commissione tra arte pop e sguardo assolutamente adrenalinico ed infantile. Hai citato la felpa, a me viene in mente il bomber, viene in mente la tuta con lo stile fitness chic, insomma un abbigliamento sempre meno formale, anche per gli adulti, e allargando ad altri settori, Valentina, mi viene in mente quello dei viaggi, dove tutti parlano di bleisure, questa tendenza che unisce business e leisure, quindi un viaggio che sta a metà tra lavoro e piacere, si ritrova anche nella moda. Assolutamente, anche qui Pitti ha davvero presentato una gamma vastissima di questa tendenza che è molto forte, che non è distantissima da quest'idea di relax, di piacere, di piacevolezza, di forme più comode, ancora una volta che non vanno da sottolineare né formalità né formalismi, per cui un nuovo genderless. In questo senso la collezione di Sansovino 6 dell'italo-americano, cioè di fatto americano, Buchanan è uno stilista americano che però da oltre 20 anni vive a Milano e appunto ha avuto tantissime esperienze in diversi settori. Con Sansovino 6, proprio a Pitti, ha davvero presentato questo nuovo modello di abbigliamento estremamente sofisticato, anche pensato per il lavoro, ma con delle forme estremamente piacevoli, estremamente legate a una rilassatezza totalmente nuova, ancora una volta dove prevale il piacere, come dici tu, come viene definito dalla tendenza stessa. E poi un capo un po' più estremo, non tutti se lo possono permettere, il pigiama metropolitano ribattezzato. Esatto, il pigiama metropolitana, anche in Sansovino 6 era molto presente in maniera evidente all'interno della collezione, ma ci sono collezioni, una su tutte Katie Airy, una stilista inglese, tra l'altro come dire proveniente dal mondo dell'arte, cioè che si è ritrovata a fare un moda uomo quasi per caso in un momento storico in cui c'era grande crisi, ma ha applicato il suo approccio all'arte attraverso le stampe, attraverso appunto un tipo di come dire sguardo ancora una volta un po' dissacrante, molto inglese, alla moda maschile. Lei ha fatto nell'ultima collezione un omaggio vero e proprio al pigiama e anche a un certo tipo di stampe, proprio da pigiamino, da bimbo, per cui non il pigiama sofisticato, come dire, dal punto di vista del mondo adulto, ma proprio un omaggio infantile al mondo del pigiama. D'altronde lei ha fatto anche delle collaborazioni, una collaborazione importante sul mondo delle stampe con IKEA, per cui un altro emblema di quotidianità, di creatività applicata al quotidiano. E questo mondo qua un po' innocente, un po' baby, un po' ancora una volta genderless, è anche il mondo di Licia Florio, se vogliamo, che insieme a appunto il suo socio propone una serie di accessori, soprattutto calzature, che vengono pensate proprio come unisex. Unisex ma con questi colori molto infantili, molto sofisticati, un mondo, se vogliamo, leggero. Ecco, il tema della leggerezza e dell'ungenderless, secondo me, lega questo nuovo approccio al Forever Kids kids di cui questo momento ha, insomma, grande bisogno. Come sempre tutte le immagini sulla nostra pagina Facebook. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. I consumautori, lo abbiamo detto più volte, siamo tutti noi sempre più protagonisti, informati, responsabili nelle nostre scelte di consumo. Sono le riflessioni che accompagnano il nostro dialogo di settimana in settimana con il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Anche questa sera, me lo hai anticipato, partiamo da un libro. Sì, partiamo da un libro, e visto che qualche settimana fa abbiamo parlato di Bauman, mi sembrava importante parlare di un grande altro vecchio della sociologia, che è Edgar Morin. Edgar Morin, proprio in queste ultime settimane, ha pubblicato un libro che si chiama 7 lezioni sul pensiero globale, che è stato immediatamente tradotto anche qui da noi in Italia, e dico che è l'altra faccia del pensiero rispetto a Bauman, perché Morin da sempre propone una visione in cui l'umanesimo e l'idea di umanista planetario, che anche in questo libro lui propone, fa da contrappunto alla società liquida di Bauman. Potremmo, banalizzando, dire che c'è un pensiero pessimista e un ottimista che si confrontano. È in qualche modo un aggiornamento dei 7 saperi fondamentali che l'educazione dovrebbe trattare in ogni società, secondo un precedente scritto di Morin. È così? È così, e anche rispetto ancora a un altro lavoro, che è La testa ben fatta, che io considero un libro ancora oggi di grandissima attualità. Morin da sempre ragiona sulla priorità dell'educazione, cioè al di là del consumo, al di là dei nostri comportamenti, ripartire per un futuro migliore significa ripensare ai nostri modelli educativi nei confronti dei nostri figli o anche degli studenti nelle scuole e nelle università. E quindi anche in questo ultimo suo libro, ecco, l'idea del pensiero globale è che è vero, è molto difficile riuscire a conciliare le diversità, ma lui è convinto che questo lavoro sotterraneo di confronto porterà poi a una società migliore e più compenetrata, diciamo, in cui per esempio il nord e il sud, l'est e l'ovest riescono a trovare un punto di equilibrio. Ci vuole pazienza e tempo. La riflessione di Morin ci invita, e la possiamo fare nostra anche in termini di comunicazione e marketing, ci invita a guardare al futuro superando i luoghi comuni, superando magari le emergenze della quotidianità. Possiamo appunto farla nostra in quest'altra direzione? Assolutamente sì, e ricordo anche che lui è stato tra i primissimi, parliamo degli anni 60, cioè Morin ha più di 80 anni, anche lui ha cominciato molto giovane, quindi veramente ci sono 50 anni di sua attività, e lui già negli anni 60 diceva: attenzione, perché il consumo non è mercificazione ma una straordinaria opportunità per crescere laddove lo si faccia con intelligenza. Ecco, quindi manterrei questo come appello anche per il futuro. Benissimo, sottoscrivo. Grazie Francesco, alla prossima. Grazie Maria Luisa. E grazie anche in regia a Paolo Corleoni. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.